come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Numero verde per chiamarci 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Partiamo veloci perché siamo in ritardo e aspetto le vostre telefonate. TG2. Berlusconi, piena sintonia con Tremonti, il posto fisso è un valore, non la pensa così il presidente di Confindustria Marcegaglia, è un ritorno al passato, meglio la flessibilità. 16 anni, ubriacata poi violentata, mentre al telefono parlava con la madre che sente tutto, due diciottenni arrestati ad Ascoli, madre e figlia poi minacciate, ritirate la denuncia. Parla il disabile preso a calci e pugni a Ragusa in un supermercato da un uomo che litigava con la cassiera. Voleva rubare la spesa, ho visto tutto, sono intervenuto. A Genova, al via la collaborazione fra comune e prostitute del centro storico, l'impegno delle lucciole, comportamento decoroso ed esercizio discreto della professione. Pronto? Sì, sono io. Chi parla? Non è uno scherzo, vero? Non lo era. Era veramente il mega presidente galattico in persona. Caro Fantozzi, prima di tutto buon Natale. Ho qui davanti la sua domanda di riassunzione e tutto il suo dossier. Mi scusi se turbo l'intimità della sua casa in questa santa notte, ma io la passo qui, nel mio ufficio, perché per me il lavoro è preghiera. Avrei bisogno di parlarle un momento. Allora, caro Fantozzi, accetta? Sì! Fantozzi, già qui. Accetto tutto. Fantozzi che accetta tutto, che accetta immediatamente la riassunzione, è la fotografia della cultura che ha sempre avuto l'Italia, da cui non siamo mai riusciti a liberarci. Dico io, purtroppo, secondo Tremonti, però non è così. C'è la cultura del posto fisso ad ogni costo. E intorno a questa questione del posto fisso, che noi in realtà già abbiamo, perché l'Italia è... ha in gran parte occupati a tempo indeterminato, una estrema minoranza a tempo indeterminato. Intorno a questa vicenda sta nascendo una discussione surreale. Una discussione surreale perché in realtà non c'è nessun tipo di provvedimento in corso, né di restrizione per le aziende che vogliono licenziare, né di aumento della flessibilità. Dunque è una discussione in realtà su principi filosofici. Tremonti oggi ci è tornato sopra in questo modo dicendo: ho detto un'ovvietà, e verrebbe da dire: e allora perché l'hai detta? Io non sono dei fanatici darwinisti che vedono nella precarietà e nella mobilità un valore in sé. È una scelta, avrò diritto di dirlo. Credo che la stabilità sia un fattore, un valore maggiore della mobilità darwinista e rotativa. Darwinismo rotativo, eccetera, eccetera. Questo Tremonti, Marcegaglia di oggi, presidente di Confindustria. Ovviamente nessuno è a favore della precarietà e dell'insicurezza in un momento come questo in particolare, però noi siamo per la stabilità delle imprese e dei posti di lavoro, che peraltro non si fa per legge, mentre riteniamo che la cultura del posto fisso è un ritorno al passato non possibile, che peraltro in questo paese ha creato problemi, ha creato un aumento di disoccupazione. Vabbè, insomma, avete capito, la discussione è questa, fumosa, perché non c'è nessun provvedimento concreto in ballo, almeno così sembra. Sentendo la voce di alcuni critici nei confronti di Brachino, di Mediaset per la vicenda di Mesiano, e lo dico provocando, verrebbe quasi da dar ragione a Brachino e a chi ha deciso di mandare in onda quel servizio in quel modo. Ma vi rendete conto? Adesso vi faccio ascoltare Marco Travaglio, censore di Mediaset, naturalmente scontato, che se la prende in primis con la giornalista che ha realizzato il servizio e la definisce, sentirete a poco, una serva sciocca precaria. Sentite. Una serva sciocca, una precaria, che quindi va anche compresa, del gruppo Berlusconi, sotto la direzione di quel personaggio per descrivere il quale basta guardarlo in faccia, devo dire, Brachino, ha pensato bene di individuare proprio in questo calzino il simbolo della stranezza della bizzarria della... E poi c'è tutta una spiegazione naturalmente condivisibile sul fatto che il servizio è fatto male, che il giudice non stava facendo nulla di strano rispetto ad un cittadino qualsiasi. Avete sentito? Serva sciocca e precaria, dunque più debole, dice Travaglio, e poi su Brachino basta guardarlo in faccia. Ancora lo stesso Travaglio, che paragona questo servizio a quello che facevano i terroristi negli anni 70. Vi sorprenderete di questa cosa, ma è davvero così. Chi se ne frega della privacy? Qui non c'è una violazione della privacy, qui c'è un avvertimento di stampo mafioso e terroristico che funziona esattamente come ai tempi degli anni 70, quando i terroristi rossi e quando le organizzazioni satellitari da lotta continua, potere operare eccetera, facevano sapere ai nemici del popolo: vi teniamo d'occhio, vi stiamo spiando, sappiamo dove abitate. Siamo tornati allo stesso clima, ma non a opera di organizzazioni terroristiche o pararivoluzionarie, a opera della televisione del Presidente del Consiglio. Sentiamo però Fabio Evangelisti, Italia dei Valori, ieri sera ad Iceberg, il servizio su Mesiano, opera di Berlusconi naturalmente, questo è sottinteso, tramite i servizi segreti. Ne vedremo delle belle su questo giudice, il che sta a significare che ha dato mandato da una parte ai servizi segreti, dall'altra ai suoi servizi giornalisti. Però, assolutamente. Si ricordi che lei ha l'immunità e io ho un muro. Assolutamente. Si ricordi che lei ha l'immunità per andare a scavare. Posso confermare anche che KGB. Per andare. Ci sono coi panzer. Ha chiesto aiuto a una potenza straniera, Israele, e l'ha chiesto al suo amico Putin. Poi, e infatti anche cominciano a uscire le prime schifezze, e quella che ha colpito oggi il giornalista Augias ha lo stesso sapore. Putin addirittura all'origine della vicenda Augias, e forse anche, non so se si riferiva anche alla vicenda Mesiano. Va bene, Roberto da Pesaro, buonasera. Roberto, mi sente? Io avevo chiamato ieri a proposito... Sì, non c'è problema, dica. Volevo dire che mi sembra che si stia usando una tecnica che è terribile ed è sconcertante, ovvero chiunque si esprima in qualche modo contro il Presidente del Consiglio viene preso pesantemente di mira fino a cercare di distruggerlo. Scusi Roberto, io ho l'impressione che c'è un sacco di gente in Italia che si esprime contro il Presidente del Consiglio, non mi pare che ci sia un killeraggio continuo di persone, allora... È verissimo, per carità, per esempio Repubblica, certi programmi di Rai 3, benissimo, che scavano, fanno il loro dovere di giornalisti di inchiesta e trovano materia su cui attaccare il Presidente del Consiglio, allora... e su questo si scatena il dibattito politico. Non mi pare che tutto questo lavoro sia impedito, si sia interrotto. Ho capito, però c'è un Presidente del Consiglio che ha un potere mediatico enorme ed è al centro del suo potere mediatico, cioè può dettare l'agenda politica, e in più ha un potere tale per cui ci sono tantissimi giornalisti che lavorano per lui, che prendono matematicamente, questo si vede oramai, è successo, si è particolarmente aggravato da un po' di tempo. Cioè da quando il Presidente del Consiglio si sente pesantemente accusato, si vede che in questo momento si sente veramente messo alle corde. Per cui chiunque, il direttore dell'Avvenire, un giudice che fa il suo lavoro e gli dà contro in una sentenza civile, ma gli dà contro perché mi sembra ci siano dei fondati motivi, c'era un giudice che era stato corrotto. Addirittura arriva... Insomma Roberto, ho capito, secondo lei chi tocca... Per vedere che calzini ha, capisce? Sì, ma questo qua... L'ho visto, anche se lei parla di pedinamento, dunque dà per scontato che sia una sorta di pedinamento in stile KGB, no? In stile servizi segreti, è d'accordo allora con quel deputato dell'Italia dei Valori, Roberto? Dunque cerchi di esprimersi, verrà preso di mira, cercheremo di distruggerlo, di questo giudice evidentemente non hanno trovato che aveva dei debiti, che doveva dei soldi a qualcuno, si sono attaccati al colore dei calzini, capisce? Sì, Roberto, l'ho capito. Dunque, lei, secondo lei, per esempio ci potrebbe essere anche la mano dei servizi segreti, non so, una cosa del genere. Su questo, guardi, adesso non ho informazioni su questo, non so se qualcuno ne possa avere. Sulla mano dei servizi Sigbuk aveva accennato a una cosa di questo tipo, che loro evidentemente hanno delle informazioni di primo piano, no, dalla polizia, va a sapere, forse dei servizi. Ma loro chi? Non loro so chi? Se c'è lavoro dei servizi. Ma loro chi? Loro è chiaro chi? Che c'è un lavoro mediatico, cioè chiunque si esprima pubblicamente, no, in maniera manifesta contro di noi, venga allo scoperto, noi cercheremo di distruggerlo. Vabbè, insomma, la teoria, chi tocca Berlusconi muore. D'accordo, Roberto, la ringrazio. Giorgio da Bologna, buonasera. Buonasera, niente, l'Italia è proprio un paese meraviglioso da questo punto di vista. Niente, la faccenda di Tremonti non deve lasciare più di tanto perplessi, perché fa parte di quel gioco che si è messo in moto mesi e mesi or sono, su come, quando e chi dovrà sostituire Berlusconi. Sul come. Cioè un'uscita anti-berlusconiana, secondo lei? Ma allora. Cioè anti-berlusconiana nel senso. È un dito in un occhio alla Confindustria. Siccome Silvio, ogni volta che va in Confindustria, dice io sono uno di voi. Quelli di Confindustria poco poco lo chiamano e gli chiedono: ma tu che cosa hai da dire? Poi è evidente che un occhio anche all'interno del... No, questa cosa di Confindustria non l'ho capita, Giorgio, francamente. No, è abbastanza semplice. L'uscita che ha fatto... A me non pare. Non è piaciuta molto a Confindustria. Sì, questo è vero. È comprensibile. Silvio Berlusconi, quando va nelle riunioni degli industriali, sì, esordisce sempre dicendo sono uno di voi. E allora? E allora è evidente che mettere in difficoltà il premier agli occhi degli industriali, ora piccoli e grandi, fa parte secondo lei della tattica di Tremonti? Secondo me lei fa un po' troppa dietrologia su questa uscita di Tremonti, anche se molti l'hanno interpretata anche in chiave politica. D'accordo, Giorgio, la ringrazio. Paolo da Roma, buonasera. Sì, buonasera dottor Cruciani. Dica. Volevo dire qualcosa su Tremonti. Sono rimasto allibito della dichiarazione che ha fatto, perché non ci dobbiamo scordare che è stato proprio il governo di centrodestra che ha fatto la fine del posto fisso, cioè sono stati loro ad inserire i contratti a termine. E tutti veramente i primi contratti a termine, la prima flessibilità in Italia l'ha introdotta il centrosinistra, sì, a essere sinceri. Erano i famosi co-co-co che parliamo, dei contratti. La legge Biagi, sì. In termini di lavoro a contratto hanno fatto sì che tutte le aziende, anziché fare le assunzioni come erano costretti a fare a tempo indeterminato, o anziché non farle per niente, con questa legge hanno cominciato a fare questi contratti a termine. Ma questo lo sappiamo, allora? Questo lo sappiamo. E allora dopo un po' se ne esce e dice che il futuro dei giovani è nel posto fisso, ma non capisco. Secondo lei c'è una contraddizione? Secondo lei c'è una contraddizione evidente? Molto grossa. D'accordo, grazie. Poi, vabbè, okay, no, grazie, dica pure, che voleva dire? Volevo fare un piccolo appunto su Braghino. Messiano, sì. Del fatto che Berlusconi qualche giorno prima, e l'ho sentito poco fa da un ascoltatore, e fece questo proclama: se ne sentiranno delle belle su questo giudice. Ora, io non voglio dire che Berlusconi ha mandato qualcuno a seguire, però insomma questa uscita risulta quanto strana, voglio dire, se ne sentiranno delle belle. Secondo lei tutto nasce da quell'uscita di Berlusconi? La facciamo risentire? Facciamola risentire. È strano, lo dice lei naturalmente. Sentiamo Berlusconi, ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo? Non ce l'abbiamo. Roberto da Roma, buonasera. Eccolo qua. Berlusconi. Buonasera. Berlusconi, no, un attimo. Berlusconi, no, lo so che non è, lei non è Berlusconi, un attimo. Come outsider carismatico di questo partito, l'editore di un giornale come Repubblica, come di giornali come l'Espresso, come i 18 giornali regionali, che ha aperto una campagna di attacco al Presidente del Consiglio, magari nella consapevolezza di avere un'azione civile in corso affidata a un giudice di cui se ne sentiranno venire fuori delle belle. Un giudice di cui se ne sentiranno venire fuori delle belle. A questo si riferiva l'ascoltatore. Per concludere questa primissima parte, Roberto da Roma, la serata è ancora lunga, fino alle 21. Roberto, 30 secondi, dica. Buonasera, no, solamente due parole per il posto fisso. Una parola. Una parola, allora io ho 26 anni e fortunatamente un contratto a tempo indeterminato. Sì. Adesso sul giusto, posto fisso, posto flessibile, dinamico, questo non sarà a me sicuramente deciderlo, però da 26enne se io volessi comprare una casa nel mondo del credito, in tutto quello che non è solamente il posto di lavoro, avere un contratto a tempo non determinato oppure non avere un posto fisso sicuramente crea molti più ostacoli a noi giovani per un futuro più quello che può essere contribuito a non fare un posto fisso. Sì, anche se poi Roberto bisogna vedere che tipo di lavoro a tempo determinato è. Ci sono persone che lavorano a tempo determinato ma hanno dei redditi largamente superiori che non hanno contratti a tempo indeterminato, non sono impiegati eppure riescono ad avere credito lo stesso, anche se in questo periodo in maniera un po' più complicata. TG3. Berlusconi si schiera con Tremonti, il posto fisso è un valore, contrario il ministro Brunetta, il PD governo schizofrenico. Il presidente di Confindustria Marcegaglia risponde al ministro Tremonti, il posto fisso sarebbe un ritorno al passato. L'Afghanistan al ballottaggio, il secondo turno delle presidenziali fissato per il 7 novembre, Karzai e Abdullah accettano la decisione. Napolitano al re di Giordania, a Gaza condizioni disumane, riprendano subito i negoziati diretti, da Israele vengono concreti segni di pace. Il prefetto Mori davanti ai giudici di Palermo ha incontrato Ciancimino ma non c'è stata nessuna trattativa tra mafia e Stato. Paura e freddo nelle tendopoli abruzzesi, la notte scorsa hanno una nuova scossa di terremoto, attesi nuovi avvisi di garanzia. Dal re del Supramonte degli anni 50-60, protagonista di reality, l'ex bandito Graziano Mesina finisce sull'Isola dei Famosi. Al Festival di Roma l'Umanità senza speranza di Marpiccolo di Alessandro De Robilan, film sull'inquinamento e illegalità a Taranto. Beh, è davvero ridicola questa vicenda di Graziano Mesina all'Isola dei Famosi, lui dice di non essere ancora stato contattato, insomma l'ex bandito potrebbe entrare addirittura nel cast e c'è la politica che addirittura si divide, pensate un po', si divide su Graziano Mesina all'Isola dei Famosi, questo perché? Perché l'Isola dei Famosi viene trasmessa dalla Rai, ma sarebbe successo lo stesso per una reality di Mediaset, addirittura il presidente Cossiga interviene, perché le sgallettate sì e lui no? Ma addirittura il PDL chiede un'interrogazione parlamentare su Graziano Mesina. Sky TG24. La svolta di Berlusconi, il posto fisso è un valore, Tremonti, ho solo detto un'ovvietà. Ma è gelo con gli industriali, per la Marcegaglia è un ritorno al passato. Afghanistan, ballottaggio il 7 novembre, Berlusconi conferma il sostegno. Stato mafia, Mori depone al processo, non ci fu nessuna trattativa. Voli di Stato, l'inchiesta sul Premier archiviata dal Tribunale dei Ministri. Ascoli, minorenne stuprata da due diciottenni, la madre sente tutto al cellulare. Ragusa, disabile, difende la cassiera da un balordo e viene picchiato, è grave. Apertura del Papa agli anglicani, sì al sacerdozio dei pastori sposati. Torna la Champions League, l'Inter contro la Dinamo di Sheva, Fiorentina a Budapest. Sky per l'Abruzzo, consegnati all'Aquila, oltre 2 milioni, nascerà un pronto soccorso pediatrico. Bene, alle 19:22 minuti in questo momento, dove andiamo? A sentire questo pezzo, questo piccolissimo stralcio di un film con Fantozzi, perché diciamo la verità, il posto fisso è rimasto da sempre un culto immutabile nella società italiana, nonostante le riforme, nonostante il vento liberista degli anni passati, che adesso evidentemente non c'è più. Pronto? Sì, sono io. Chi parla? Non è uno scherzo, vero? Non lo era. Era veramente il mega presidente galattico in persona. Caro Fantozzi, prima di tutto buon Natale. Ho qui davanti la sua domanda di riassunzione e tutto il suo dossier. Mi scusi se turbo l'intimità della sua casa in questa santa notte, ma io la passo qui, nel mio ufficio, perché per me il lavoro è preghiera. Avrei bisogno di parlarle un momento. Allora, caro Fantozzi, accetta? Sì! Fantozzi, già qui. Accetto tutto. Il punto è che si è scatenato un dibattito pur non essendoci alcun tipo di provvedimento in campo. Tutti pazzi per questa vicenda del posto fisso. Avete sentito anche i titoli del TG3, i primi tre titoli, naturalmente per evidenziare le divisioni che ci sono all'interno del governo su questo punto, i primi tre titoli tutti sulla vicenda, sulla quale ci sono solamente le parole di Tremonti, che lo stesso Tremonti ha definito un'obvietà. Non c'è un provvedimento legislativo, un'idea del governo, un'idea dell'opposizione, nulla. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Cerco di difendere la logica del posto fisso. Le società europee sono costruite come famiglia sulla tradizione del posto fisso. Tremonti dice: senza un posto fisso, e l'ha anche scritto ma nel suo libro, non si può prevedere il futuro, non si possono fondare famiglie. Non è vero. Italia sì, Italia no, Italia boom. Io non sono dei fanatici darwinisti che vedono nella precarietà e nella mobilità un valore in sé. È una scelta, avrò diritto di dirlo. Riteniamo che la cultura del posto fisso è un ritorno al passato non possibile. Credo che la stabilità sia un fattore, un valore maggiore della mobilità darwinista e rotativa. Va bene, questo accade in Italia 19:25, 800 24 00 24. Claudio Branchino si è preso ieri il tapiro d'oro di Valerio Staffelli, sentite. Buongiorno, sono venuto a portare questo bel tapiro d'oro. Lei è stato bravo, devo dire che ha fatto indossare i calzerotti qua di Forza Italia a tutti quelli della sinistra. Allora, questo è il dato di fatto psichiatrico, come dice il vostro capo. Certo. Psichiatrico, aver trasmesso forse quell'immagine, poi c'è anche un po' di psichiatria, diciamo, nel mondo della politica italiana. Però premetto che era involontaria. Era una battutaccia, forse non felice, ma che doveva essere una battuta. Okay. E invece vedo che è diventata una tendenza. Però credo che la tendenza dei calzini turchesi, quando Branchino si riferisce al dato psichiatrico, è perché Antonio Ricci, l'ideatore, il creatore di Striscia la Notizia, ha definito quel servizio un caso da psichiatria che lui non avrebbe mai mandato in onda. Poi parla anche delle minacce ricevute lo stesso Branchino, sentite. So che ha passato un weekend difficile, ma guardi a casa, tutto quello che gli è arrivato. Guardi qua quanta roba le è arrivata. Sono arrivate decine e decine di insulti, in cui vengo definito mafioso, merda, la combinata grossa sul Branchino. No, ma quale combinata grossa? No, dico, si è messo in questa situazione. No, è vero, cioè voglio dire, io sono stato minacciato, io odio Branchino, qualcuno ha detto andate sotto casa sua. Succede anche questo poi, che le critiche si trasformino in una valanga, perché oggi è molto facile dare del servo a qualcuno. Sentite Marco Travaglio. Una serva sciocca, una precaria, che quindi va anche compresa, del gruppo Berlusconi. Una serva sciocca dunque anche che va compresa perché è precario. Però la serva sciocca di Travaglio rimane, serva sciocca alla giornalista che ha fatto il servizio. E poi Branchino, sentite come lo definisce. Sotto la direzione di quel personaggio per descrivere il quale basta guardarlo in faccia, devo dire, Branchino. Branchino, basta guardarlo in faccia. Dunque, non solo è un servo, eccetera, perché poi sicuramente qualche servo se lo sarà preso, però basta guardarlo in faccia, dice Travaglio, per capire chi è. Una nuova categoria inventata da Travaglio, in realtà non è nuova, è antica. Poi ha parlato anche di stile terroristico, Travaglio, ma l'abbiamo già fatto sentire. Evangelisti, Italia dei Valori, sentitelo, è tutto opera del KGB, dei servizi segreti, amici di Berlusconi, lo sentiremo tra poco, sarà il nostro ospite se lo becchiamo naturalmente. Ne vedremo delle belle su questo giudice, il che sta a significare che ha dato mandato da una parte ai servizi segreti, dall'altra ai suoi servizi giornalisti. Però, assolutamente. Si ricordi che lei ha l'immunità e io ho un muro. Assolutamente. Si ricordi che lei ha l'immunità per andare a scavare. Posso confermare anche che KGB. Per andare. Ci sono coi panzer. Ha chiesto aiuto a una potenza straniera, Israele, e l'ha chiesto al suo amico Putin. Poi e infatti anche cominciano a uscire le prime schifezze, e quella che ha colpito oggi il giornalista Augas ha lo stesso sapore. Putin, l'ex KGB, che adesso si chiama in un altro modo, abbiamo ripescato qualcosa di prezioso, perché Fede se la prende con Rosy Bindi a proposito della battuta barra offesa, a secondo delle interpretazioni di Berlusconi, che noi abbiamo condannato. Bisogna sempre specificarlo, sennò cominciano i messaggi, servo, eccetera, eccetera. Non lo specifichiamo. Fede però dice, Bindi non accetta le scuse, Berlusconi se ne farà una ragione, soprattutto se ne farà una ragione che non è una donna a sua disposizione. Fede, Emilio Fede. Ma la Bindi non accetta le scuse, tanto insiste che si offre in foto con Bersani. Vi ricordo che Bersani è il candidato, diciamo, numero uno alla segreteria del Partito Democratico, perché lui è in testa, diciamo, nell'incontro con la base, seguito da Franceschini, attuale segretario, e poi terzo posto Ignazio Marino. Tanto insiste, dicevamo, che si offre in foto con Bersani mostrando la maglietta con la scritta che è rivolta a Berlusconi. C'è scritto sulla maglietta: non sono una donna a sua disposizione, cioè a disposizione di Berlusconi. Berlusconi, ritengo, senza fare ironia, che se ne farà una ragione. No, senza fare ironia, in questo caso non solo si fa ironia, ma è una battutaccia pure questa, caro Fede. Chi ha presentato questa interrogazione parlamentare su Graziano Messina? La voglio sapere. Pare che ci sia l'Icastro del PDL, immorale, presenta un'interrogazione. Eccoci, andiamo subito agli ascoltatori. Alle 19.35, Cesare da Verona, buonasera. Buonasera, dottor Cortà. Dica. Io volevo intervenire riguardo a due fattori. Il primis è quello che diceva il ministro Tremonti. Io sono un giovane, ho 24 anni, lavoro nel comparto bancario, sono precario, non mi lamento della mia posizione perché penso che finché una persona è giovane possa meglio valutare il mercato del lavoro e quello che offre, se ha la possibilità anche di essere un po' più snello sul mercato del lavoro, ed è anche sicuramente una risorsa per quanto riguarda le imprese e il mercato del lavoro, poter usufruire di queste tipologie di contratti con i giovani. Su questo non vedo che di scandalizzarsi. Un posto fisso penso che serva, ma più per delle, quando si va un po' più avanti nell'età, quando si cerca di crearsi una famiglia, tutto quanto, sì, penso che sia più facile crearla con un posto fisso. Sì, no, Cesare, su questo non c'è il minimo dubbio. In realtà la cultura italiana da questo punto di vista non è mai cambiata. Oggi sulla Stampa leggevo un articolo dell'amico Michele Brambilla, il quale scriveva di un vigile urbano che era un comandante, e poi, dopo che è stato fatto fuori, insomma, si è cambiato il comandante di quel paese, ha fatto un concorso per essere riassunto da vigile semplice, perché comunque aveva a cuore il posto da vigile urbano. La ringrazio. Giulia D'Asti, buonasera. Buonasera. Senta, io volevo intervenire un po' su tutto, ma rapidamente, perché mi rendo conto che non si può far parlare solo me. Però, quello che vuole. Tutto quello che ho sentito dire è anche l'ultima cosa che lei ha detto sulla Bindi rispetto, no, lei ha detto che lei ha riferito sulla Bindi rispetto a quello che ha detto Fede, sono segni di uno stesso disegno, cioè a seconda di come le persone agiscono nei confronti del governo o del premier, eccetera, sono buone o cattive, che è un atteggiamento che non può che far male al paese, ma che fa proprio a me personalmente mi demoralizza tantissimo, cioè. Perché io sulla legge Biagi, ad esempio, pur non avendo dato il voto a questo governo, mi ero convinta che poi legge Biagi è una strumentalizzazione, perché, voglio dire, no? Il povero Biagi è morto, gli era stata tolta la scorta, poi l'hanno chiamata legge Biagi, vabbè, che poi non era proprio la sua legge. Vabbè, adesso non ci addentriamo nei dettagli. Ecco, non ci addentriamo, però io mi ero convinta che effettivamente era più adatta al mondo d'oggi, no? Perché invece adesso ha cambiato idea? Ora, no, io non ho cambiato idea assolutamente, ma questi che improvvisamente così da un giorno all'altro, tac, lo so che non è un provvedimento, lo so che quindi poi sulle decisioni che verranno prese ha poca influenza, ma generano, come si può dire, un malessere nelle persone che a un certo punto si trovano sbilanciati. Sì, diciamo, scusi Giulia, sì, ho capito Giulia, naturalmente Tremonti non è che ha messo in discussione la legge Biagi, attenzione. Legge Biagi perché non l'ha nominata. Non è che ha detto però, adesso voglio cambiare le regole, ha capito? Io, no, anche perché non può. Perché come ha detto, no, veramente potrebbe, basta un provvedimento. I contratti di lavoro non si fanno per legge, ma si fanno nella contrattazione. No, però la regolamentazione generale è come si è intervenuto sulla legge Biagi, certo. Si potrebbe tornare indietro. Ecco. Poi è intervenuto il Presidente del Consiglio, ha detto la sua pillolina, no? La sì. Malafede della sinistra. Ma se lui diceva il contrario, diceva proprio il contrario, l'esatto contrario, un'incoerenza incredibile. Poi la Bindi l'ha attaccata, allora una personaggio. Io in combinazione ieri ad Assi ho sentito la Bindi, che è venuta a sostenere appunto il candidato. Sì. non voglio fare il nome del candidato. No, il candidato Bersani, lo sappiamo tutti, il candidato Bersani. Allora? Però le assicuro che lei ha spiegato molto bene il suo assunto, perché dice: mi è sgorgato dal cuore dire io non sono una donna a sua disposizione. Ma con questo ho voluto dire che nessun italiano può essere a disposizione di questi comportamenti. Cioè non si può attaccare tutti, cioè insomma, io insegno, sì. Se uno mio alunno prende 4 e allora il giorno dopo dice che sono insegnante del cavolo, poi quando gli do 8 dice che sono brava. Ma però Giulia, mi perdoni. La Bindi ha reagito bene a quella che è stata una scorrettezza, certo. Diciamo anche un insulto o comunque un qualcosa che il Presidente del Consiglio non dovrebbe fare nei confronti del Vicepresidente della Camera, e su questo non ci piove. Dopodiché su quella frase non sono una donna a sua disposizione, che è stata, come lei sa, molto... Sì, molto... perché vabbè, fa parte dell'oggi. No, fa parte della politica, hanno fatto delle magliette. Fa parte della politica di oggi. Ma va benissimo, non è quello il punto. Però è una frase che chiaramente fa intendere il fatto che invece ci sono altre donne a disposizione di Berlusconi. È una frase anche quella piuttosto pesante nei confronti del Presidente del Consiglio, indirettamente, o no? Ma lo sanno tutti. Beh, ho capito, Giulia, lo sanno tutti. Anche lei allora si mette in quel numero di persone che danno per scontato il fatto che ci siano milioni di donne a disposizione del Presidente del Consiglio, e che lo stesso Presidente del Consiglio poi piazzi in tutti i posti dalla politica allo spettacolo. Mi scusi, no, io li ho proprio visti, perché io con Biazione. Lei li ha visti, cosa ha visto? Abbastanza. No, ho proprio visto il passaggio da Grande Fratello al Parlamento. Di tante persone, Grande Fratello, trasmissioni con simili. Ma quindi quale sarebbe il passaggio dal Grande Fratello al Parlamento? Giulia, il passaggio dal Grande Fratello al Parlamento, me lo dice qual è? Scusi, eh? Cioè mi dice una persona che ha fatto Grande Fratello ed è diventata parlamentare? No, ascolti. Allora non dica Grande Fratello, di che cosa stiamo parlando? No, infatti è vero, ho sbagliato anch'io. Però quello che invece le vorrei dire, mi scusi perché volevo finire il mio ragionamento, sì, prego. È questo, che si genera nel cittadino, secondo me, un malessere che io sento molto, perché io dico, visto che siamo in democrazia, ti danno la possibilità di votare per uno, di votare per l'altro, e poi ti gestisci in democrazia con il governo che c'è. Quello che veramente fa stare male le persone, glielo assicuro, nelle mie conoscenze lo sento dire da molti. Cos'è che fa stare male? L'essere attaccati, lo spiego, l'essere attaccati perché non si è votato per quella determinata coalizione. Questo fa stare male, perché vede, io non avevo votato. Ma chi succede? Neanche. Mi scusi, Giulia. Non avevo in passato proprio al Presidente del Consiglio. Io, per esempio, a me fa star malissimo sentire, ogni tanto lo sento, sì. Perché se va su internet lo può sentire anche lei, quel discorso fatto in un comizio elettorale pre-elezioni europee, a Cinisello Balsamo, dicendo con un odio, questo sì che era violenza, una violenza verbale incredibile, siete solo dei poveri comunisti. Vabbè. Perché lo contestavano. Io trovo che io vengo contestata a volte. Sì, Giulia, guardi, la violenza verbale... Ma bisogna accettare, perché sì. Tutto questo... Vede, la violenza verbale c'è da entrambe le parti. Giulia, la ringrazio. Buona serata, Ernesto da Roma. Buonasera, la interrompo perché... Pronto? Già 4-5 minuti. Prego Ernesto, dica. Mi sente? La sento, dica. Buonasera Cruciani, grazie per avermi chiamato. Senta, niente, io volevo solo denunciare, ho fatto un'analisi, della patologia sociale che affligge tutto l'apparato di centro-sinistra. Cioè c'è qualcosa che ha bloccato l'inconscio collettivo dei personaggi del centro-sinistra, si chiama Berlusconite. È un virus che si è permeato proprio nelle teste degli uomini politici di centro-sinistra, non fanno altro che parlare di Berlusconi. È così, Ernesto, lei ha perfettamente ragione. È una patologia sociale, Cruciani. No, è una patologia, appunto, non è una patologia sociale, è una patologia. Ma è sociale nel senso che ci riguarda, come società italiana. Abbiamo una classe politica che si è rimbicillita, stavo dicendo un'altra cosa, e quindi non riesce ad esprimersi e attaccare, fare l'opposizione come dovrebbe fare, in questo senso è sociale. Cioè, invece di attaccare Berlusconi su cose che hanno una molta importanza, come, non so, per esempio, ne dico una, la riduzione delle tasse su salari, stipendi e pensioni, la chiusura delle province che sono un inutile centro di spesa, il dimezzamento dei parlamentari, che pure ha promesso in campagna elettorale, si attacca ai calzini, alle prostitute, e questo è una patologia, capisci? Cioè sono proprio malati, da 94, perché queste patologie insorgono a seguito di un grosso trauma, che è stato quello del 94, quando questo da sua emittenza è diventato sua eccellenza. Ernesto, che vuole che le dica? A ondate continue, perché ci sono periodi poi di pausa in questa patologia, però evidentemente è cronica e ogni tanto spunta fuori, con cose anche purulente, direi. Ernesto, la ringrazio. Dove andiamo? Valerio, provincia di Cuneo, torniamo in Piemonte, dove ci ha chiamato l'ascoltatrice di prima, molto molto arrabbiata. Salve, buonasera. Valerio, dica. Mi sente? La sento molto bene. Ecco, intanto volevo ringraziarla per la piacevole compagnia che ogni sera mi fate quando torno a casa. La ringrazio molto. Volevo intervenire. Dove sta andando adesso? Sta tornando a casa adesso anche stasera? Sto tornando a casa, fortunatamente. Ma da dove? Dove lavora lei e dove si dirige? Lavoro nell'Alta Langa e torno a Bra, provincia di Cuneo. Insomma, lavora nell'Alta Langa, cosa fa? Il vino? Non mi dica che fa il vino. No, lavoro, faccio l'educatore in una comunità. Beato lei, vive tra le Langhe e Bra, insomma, posti molto belli. Esatto. Allora, senta, io volevo intervenire a proposito di due argomenti. Sì. Uno è appunto la smentita di Berlusconi a proposito della frase, dell'affermazione di Tramonti. Io onestamente non sono tanto sbalordito dall'ultima di Berlusconi. No, veramente non ha smentito nulla, ha detto di essere d'accordo con Tramonti. Esatto, su quello. Non mi impressiona tanto questa ultima uscita di Berlusconi, perché siamo abituati, almeno io sono abituato a questi changer de dame. Quello che mi chiedo è che in questo momento in cui i precari della scuola stanno così tanto protestando per sto posto fisso, sto benedetto posto fisso, il governo, che proprio esalta il posto fisso, non fa nulla quando potrebbe fare qualcosa. Questa è la mia prima. Secondo me potrebbe fare molto poco, potrebbe fare molto poco, potrebbe stringere le maglie di alcuni regolamenti, di alcune leggi, ma insomma è molto difficile da questo punto di vista. E poi un'altra osservazione che mi tocca maggiormente da educatore, ed essendo ogni giorno a contatto con i ragazzi, sì. Ho appreso di Messina, del caso Messina, no? Che potrebbe arrivare alle luci della ribalta, no? Potrebbe andare lì all'isola dei famosi. Sì. E mi chiedo, che esempio diamo ai ragazzi? Un bandito che arriva in televisione, ha fatto 40 anni di galera? Ho capito, ma è comunque un bandito, resta comunque un bandito. Ho capito, Valerio, ma non è che diventa Presidente della Repubblica o viene candidato in Parlamento, va a partecipare a una trasmissione televisiva. Per fortuna, anche perché alla presidenza del Consiglio abbiamo ben altro. Che abbiamo? Mi scusi, lei sta paragonando, cioè secondo lei Berlusconi è peggio di Messina come bandito? No, mi scusi. No, peggio no, però è un bandito, però insomma è un bandito. No, non ho detto questo, lo dice lei. No, lo dice lei. Lei l'ha fatto intendere, Valerio, abbia pazienza. Io ho fatto un paragone con Messina, le ho detto perché comunque alla presidenza del Consiglio abbiamo ben altro, la presidenza del Consiglio. Cioè abbiamo ben altro, cioè cosa? Abbiamo una persona che è indagata, è stata indagata vabbè. No, adesso iniziamo con la tiritera, indagato, le cose, le prescrizioni, e poi ci mettiamo in mezzo la mafia, il terrorismo, il KGB, che ci vogliamo mettere ancora? Stavamo parlando di Messina, cioè la cosa che mi impressiona è che un bandito che pur ha fatto 40 anni di galera, come giustamente ha detto lei, può essere portato alle luci della ribalta. A me non sembra una cosa così scandalosa. Comunque, insomma, adesso ci riflettiamo bene. Grazie, Valerio. Io fotografo la situazione. Non è colpa mia se la realtà è proprio questa, di un Presidente del Consiglio come Alibaba e di... Scusi, come Alibaba? Perché Alibaba era il capo di 40 ladroni. Il nostro Presidente del Consiglio, piaccia o non piaccia, è un corruttore che la fa franca grazie alla prescrizione e che ha tentato di farla franca con il lodo Alfano, anzi l'ha fatto franca, perché da quando ricomincia il processo a quando finirà comunque andrà in prescrizione. Abbiamo una nuova invenzione di Di Pietro, che è Alibaba. Giustamente a un certo punto Lilli Gruber ieri sera ha detto: ma scusi, ma perché Alibaba? Insomma, dopo Hitler, Videla, c'è anche Alibaba. Evangelisti, eccoci qui. Sì, buonasera. Che m'ha combinato ieri sera? Ho sentito a un certo punto Iceberg. Non ho combinato niente, intanto ho ascoltato un pezzo della vostra trasmissione. Anzi, sì. Se posso rubare 30 secondi. Prego, prego. Ho avuto il tassista K calabrese che ieri sera mi ha accompagnato dalla stazione centrale di Milano agli studi di Tele Lombardia. Era sulla Zanzara. Ed era appunto sintonizzato sulle vostre onde, mi ha fatto particolarmente piacere, ne abbiamo discusso insieme, quindi lo saluto e gli auguro buon lavoro. Anch'io lo saluto perché siamo molto amati tra i tassisti, non solo milanesi, e questo naturalmente ci fa piacere. Lei capirà, no? Allora, mi dica tutto, ho combinato allora, io ieri. No, Evangelisti, a un certo punto ho visto una trasmissione, vogliamo far risentire questa cosa di Evangelisti di ieri sera ad Iceberg. Lei ha detto, beh, insomma, la cosa di Augias, e credo si riferisse anche alla vicenda di Mesiano, c'è lo zampino dei servizi segreti. Ne vedremo delle belle su questo giudice, il che sta a significare che ha dato mandato da una parte ai servizi segreti, dall'altra ai suoi servizi giornalisti. Però, assolutamente. Si ricordi che lei ha l'immunità e io ho un muro. Assolutamente. Si ricordi che lei ha l'immunità. Per andare a scavare. Posso confermare anche che Kegebe. Per andare. Ci sono coi panzeri. Ha chiesto aiuto a una potenza straniera. Israele. E l'ha chiesto al suo amico Putin. E infatti cominciano a uscire le prime schifezze, e quella che ha colpito oggi il giornalista Augias ha lo stesso sapore. Allora, l'amico Parenzo intanto mette sempre in mezzo questa storia del muto ogni volta che qualcuno dice delle cose pesanti durante la sua trasmissione. Vabbè, ma a parte questo, Evangelisti, ora, se la cosa fosse stata preparata... L'audio non era perfetto, mi faccia dire, mi dispiace per i suoi radioascoltatori. No, io ho fatto un ragionamento tutto politico, seguo le vicende anche sulla stampa, oltre che viverle in diretta nell'aula di Montecitorio. Nei giorni scorsi abbiamo letto di questi riferimenti di una richiesta di aiuto ad una potenza straniera da parte del Presidente del Consiglio, che in queste ore incontrerà proprio il Premier. Ma richiesta d'aiuto per che cosa? Perché si sente minacciato, addirittura ha parlato di golpe, di quant'altro. Vera, io in questi giorni seguo un pochino le vicende, anche questa vicenda del papello in Sicilia, e una cosa ce l'ho chiara, che trovare la verità fra i detti e non detti, fra i documenti falsi o presunti autentici, c'è sempre da fare attenzione. Su questo siccome non c'è dubbio. Dentro gli archivi dei servizi segreti non si trovano soltanto documenti veri, ma anche vere e proprie veline e documenti creati ad arte contro personaggi più o meno famosi o che avrebbero potuto diventare famosi, non mi sorprende che ci possa essere qualche documento riferito ad uomini politici, a giornalisti. Però mi scusi, lei ha fatto riferimento anche alla vicenda Mesiano. Ho fatto riferimento, mi faccia concludere, a quello che è stato l'utilizzo improprio, osceno, degli archivi Mitrokhin, addirittura si è inventata una commissione d'inchiesta. Ma questo non c'entra niente però con la vicenda di questo uomo. Questo è quello che è successo nel passato. Vabbè, fatto dal Popolo delle Libertà. Vabbè, ma questa è una storia vecchia. Ieri sera io sono intervenuta a proposito del giudice Mesiano, perché lì in studio a Tele Lombardia c'era un giornalista che diceva: io sono stato seguito dai servizi segreti. Ho detto: beh, mi sembra una cosa assolutamente veritiera, verosimile, e probabilmente in queste ore lo stesso giudice Mesiano sarà sottoposto ad un trattamento analogo. Cioè, mi scusi, un trattamento analogo in che senso? Cioè... Nel momento in cui gli sono state mandate dietro le telecamere di Canale 5, gli inviati del giornale di famiglia, non mi meraviglierei se avesse alle spalle, cioè, secondo lei Berlusconi gli sta sguinzagliando dietro qualche uomo dei servizi segreti, mi scusi. Ma io non dico Berlusconi, dico che non mi meraviglierei se oggi del giudice Mesiani si venissero a sapere cose recondite nel suo privato. E la gravità di tutto questo, il mandato, per dire certe cose bisogna avere le prove, bisogna avere delle prove, non è che si possono dire delle cose così. All'indomani della sentenza sull'oso Mondadori pronunciata da Mesiano, il Presidente del Consiglio ha detto: ne sentiremo e ne vedremo delle belle nei confronti di questo. Uno che deve fare una trama con i servizi segreti non è che se ne esce pubblicamente con una frase del genere. Intanto ha dato un mandato alle sue testate giornalistiche e al suo potere mediatico. Di conseguenza non mi meraviglierei se un mandato analogo fosse stato dato anche alle barbe finte. Ma però scusi Evangelisti, lei mi assumo la responsabilità di quello che dico, chiaramente esprimo un'opinione, sì. Se avessi le prove di quello che dico andrei immediatamente dal magistrato. Se uno non ha le prove però forse potrebbe anche non parlare. No, si immagini, io sono un parlamentare, ho non soltanto il diritto, ho il dovere di esprimere delle opinioni, no. Ovviamente queste mie opinioni debbono essere poi valutate dall'opinione pubblica tutta. No, ma certo, su questo non c'è dubbio. Io mi assumo una responsabilità ovviamente di quello che dico, rispondo di quello che dico e non mi nascondo. No, ma ripeto, la responsabilità politica di questi servizi giornalistici contro Misiani e quindi anche di un'eventuale indagine nei suoi confronti da parte dei servizi segreti o di qualche altro organo viene direttamente dal Presidente del Consiglio. Ne vedremo e ne sentiremo delle belle. Io ripeto, se si vuole creare una... Ma io non voglio creare niente. Non sto parlando di lei. Se intorno al Presidente del Consiglio o il Presidente del Consiglio volesse fare delle indagini sul passato, sul presente di Mesiano, primo non lo dice in pubblico, secondo poi il risultato non mi sembra sia stato eccezionale finora. Ma non so se è stato eccezionale il risultato, però un primo fatto c'è stato, cioè il tentativo di denigrare l'immagine pubblica di questo giudice, soltanto sarebbe... Ma è diventato un eroe, tutti indossano i calzini turchesi. È stravagante perché portava i calzini turchesi. Beh, magari a volte le schifezze si ritorcono contro, a volte il fango torna in faccia quando c'è vento a chi lo lancia. Senta, sa che mi scrive un ascoltatore, Giulio, ma quale Putin? Dietro c'è Calcedonia, questa è la più bella della serata. Questa è divertente e simpatico, complimenti all'ascoltatore. Assolutamente, perché è un grande spot per i calzini in ogni caso. Senta, come si chiama quel tassista di ieri? È riuscita a far parlare di sé utilizzando l'inno al femminile. Era fantastico quell'inno. Fantastico. Quell'inno era strepitoso. Sulla cosa siamo d'accordo, vedi? Assolutamente. Parlando poi si trova sempre un accordo. Voi dell'Italia dei Valori se lo sapete bene, al di là degli slogan. Basti vedere le giunte, gli accordi locali che fate con Forza Italia, pure con gli ex di Forza Italia. Insomma, se lei me li conta... Scommettiamo che non arriva a contare tutte le dita di una mano? Vabbè, comunque ci sono sempre, il mostro resta mostro anche se sei non in... Non si possono prendere le eccezioni. No. Senta, come si chiama il tassista? Non lo so, francamente, mi ha detto che è calabrese, che è a Milano dal 62 e ha detto che sente ancora un clima razzista che oggi non si ripercuote più direttamente nei confronti dei calabresi, dei campani, dei siciliani, ma ancora c'è sotto la cappa dell'odio razzista verso albanesi, marocchini, filippini e quant'altro. Comunque il... è un suo radioascoltatore affezionatatissimo. È una mia, ho capito, ma io non sono tenero nemmeno con i radioascoltatori, però il tassista ci dovrebbe chiamare e se la dovrebbe prendere con Venditti. Lei, Venditti ha sparato a zero sulla Calabria. Vedrà che se ci ha ascoltato si farà. Mi chiama subito. Onorevole Evangelisti, buona serata. A grazie. Lei, buon lavoro. TG5. Per Emma Marcegaglia di Confindustria il posto fisso è un ritorno al passato, critiche le opposizioni, Berlusconi in piena sintonia con Tremonti, posto fisso e partite IVA sono un valore. Nessuna trattativa tra mafia e istituzioni, il generale Mori in tribunale a Palermo, impensabile, una resa vergognosa dello Stato ad una banda di criminali assassini. Ballottaggio in Afghanistan il 7 novembre, ma anche voci di coalizione tra Karzai e Abdullah, 400 militari italiani nel paese fino a fine voto. Raffica di rialzi per benzina e gasolio, spinti dall'aumento del petrolio, il pieno salito di 3 euro in 20 giorni. Ascoli Piceno, due giovani fanno ubriacare una 16enne e abusano di lei mentre la madre della ragazza sente tutto al telefonino, sono stati arrestati. A Gela una donna incontra l'amante in un bar chiuso lasciandolo Yorkshire legato di fronte al locale, ma passa il marito, il cane abbaia e fa scoprire la tresca. Più dell'85% dei patentati ultra ottantenni continua a guidare con qualche incidente di troppo e forse qualche leggerezza nelle visite mediche. Va bene, TG1, sentiamo anche questo. Berlusconi con Tremonti. Conti, il posto fisso è un valore. Marcegaglia, ritorno al passato, il ministro dell'economia, ho detto una cosa ovvia. Afghanistan, si torna a votare per il ballottaggio presidenziale il 7 novembre. Karzai, un passo avanti per la democrazia nel paese. Le stragi di mafia, nessuna trattativa tra Stato e boss. In aula a Palermo il prefetto Mori nega il papello. Cossiga, il Tg1, mai creduto a un negoziato. Mi ha gridato guarda da un'altra parte, ma io non mi sono girato. Parla il disabile picchiato a Ragusa per avere difeso una cassiera. La coppia reale di Giordania è in Italia, la regina Rania al Tg1, uso Twitter per essere in contatto con tantissime persone in tutto il mondo. Il prezzo della benzina torna a salire, per un pieno 3 euro in più, pesano il rialzo del petrolio, il dollaro debole, la speculazione. La storia di Veronica, parade la Folgore, per un anno farà la modella, voglio dimostrare la femminilità delle donne soldato. Va bene, la regina Rania di Giordania che usa Twitter, sembra una stranezza, ma più che altro è una cosa assolutamente normale. Dove andiamo? Andiamo, Francesco da Milano, buonasera. Buonasera, eccoci. Mi sente? Sì. Ok, niente, io volevo intervenire in merito alle dichiarazioni di ieri di Tremonti e soprattutto legato a un messaggio che le hanno inviato ieri. Questo messaggio recitava, insomma, non si può mica assumere tutti quanti i contratti a termine, giù di lì, e se ci sono delle soluzioni che le trovino. Ora, premetto, io sono nel ramo, nel senso che faccio il funzionario sindacale. Non entro nel merito della cosa, però le voglio dire che è allo studio della mia organizzazione sindacale, elaborato dal professor Pietro Icchino, una tipologia di contratto che se in Parlamento poi viene approvata e via dicendo, dovrebbe dare origine a un contratto unico che dovrebbe andare a sostituire queste macedonie contrattuali che sono i lavori di somministrazione e i classici contratti a termine, perché bisogna che la contratto gente... unico in che senso, Francesco, mi scusi, eliminare tutte queste forme, diciamo, di lavoro flessibile? Sì, dovrebbe sostituire queste forme di lavoro flessibile. In quale modo? Non entrando proprio nello specifico, però il contratto del lavoratore diventa a tempo indeterminato man mano, cioè si rafforza il tempo indeterminato man mano che l'anzianità del lavoratore aumenta all'interno di quell'azienda lì. All'inizio è flessibile allora il contratto. Esatto. Sì, però Francesco, è una di quelle soluzioni che di cui si parla da tempo. Fatto sta che, nonostante il fatto che alcune non siano più utilizzate da tempo, non vengono eliminate alcune forme di lavoro flessibile. Vabbè, insomma, non ci addentriamo troppo però nei dettagli. Luigi da Caserta, buonasera. Pronto, mi sente? Dica. Allora, senti, io volevo fare un intervento riguardo, diciamo così, un paragone fra Fede e Repubblica, diciamo così. Addirittura, un paragone tra Fede e Repubblica, perché lo vuole perché fare? Perché lei prima ha fatto sentire una delle tante sviolinate, diciamo così, oppure questa difesa estrema che viene fatta ogni volta nei confronti di Berlusconi, pure sul caso della Bindi, lei ha detto che non è una difesa ma è un'ulteriore battutaccia che si poteva evitare, no? E io, diciamo così, noto che da parte degli organi di informazione tipo Libero, Fede, Il Giornale, c'è sempre una difesa, cioè non c'è un punto di vista obiettivo nei confronti di quello che fa il Presidente del Consiglio. Poi viene accusata Repubblica di essere di parte, ma io ricordo benissimo, diciamo, quando la sinistra era al governo, oppure quando, diciamo così, abito così a Caserta, mi ricordo nell'era Bassolino, oppure della Iervolino, ecco, le critiche vengono fatte anche abbastanza dure, il caso della Unipol che c'è stato nel passato, ricordo anche Caldarola che era il direttore dell'unità che criticava apertamente la sinistra di alcune scelte che faceva, e quindi non vedo dall'altra parte questa critica, diciamo così, anche costruttiva, cioè c'è questo schieramento di difesa a spada tratta di qualunque cosa avvenga o faccia questa parte politica. Ma guardi Luigi, non credo, per esempio sul tema delle tasse o della diminuzione del carico fiscale, non mi sembra che Libero o il giornale siano allineati sulle posizioni del governo, del governo. La ringrazio Luigi. Emilio da Bergamo, buonasera. Buonasera a lei Cruciani. Dica. Desidero intervenire a proposito delle affermazioni del ministro Tremonti. Cosa ci vuole dire di nuovo? Sul posto fisso sì, poi. Non voglio dire nulla di nuovo, ma fare una semplice considerazione. Premesso che non ho simpatia per questo governo, pur non essendo comunista, per dirle che è un'affermazione di una banalità sconvolgente, dottor Cruciani. Di un'ovvietà, lo stesso Tremonti l'ha detto. Ha detto, la tragedia è che tutti quanti, compreso quel sindacalista che mi ha preceduto, si sono così comproposte. Cioè, un paese serio, e a mio parere questo paese in questi ultimi tempi di serietà ce n'è molta poca, avrebbe detto, signor Ministro, lei cosa propone? No, ma lei ha ragione su questo. La Marcegaglia, ma la Marcegaglia con chi si arrabbia? Su quale proposta? Cioè questo, mi permetta di insistere, proprio è la decadenza di un governo populista che purtroppo questo paese, secondo me... Però mi scusi, adesso questo con la decadenza di un governo populista, forse lei la allarga un po' troppo la questione, però ha perfettamente ragione quando dice non si sta parlando di nulla, non c'è un provvedimento, un'iniziativa, eccetera, c'è uno slogan... Anche lei ha un ascoltatore, dice non attendiamoci nei tecnicismi a quel sindacalista, ma quali tecnicismi? Cioè voglio dire, cioè questo governo, mi perdoni, e le ribadisco, non sono un comunista, non ho sì, ho capito, ho capito, non Emilio. Non sono mai stato, cioè è qualcosa di sconvolgente, cioè io voglio dire, poi io sono papà di 3 figli e sono preoccupato per il futuro dei miei figli. Ma adesso non esageriamo, preoccupato, tutti siamo preoccupati per il futuro dei figli o per il futuro delle generazioni e soprattutto per i nostri familiari, ma insomma che lei sia preoccupato lo capisco, ma non si preoccupi per le frasi di Tremonti, eh. Sì, ma mi preoccupo perché è il nostro ministro, se fosse un professore universitario di qualsiasi università sarebbe un intellettuale come tanti, ma è un ministro, da lui credo che tutti quanti si attendano proposte concrete e non slogan banali che non dicono assolutamente nulla. Sì, però Emilio bisogna anche inserire quelle frasi in un contesto, cioè Tremonti ha fatto un discorso generale, stava facendo un discorso generale sulla globalizzazione, su quello che tiene, quello che non tiene, quello che va bene, quello che va male, e poi ha fatto un elogio del posto fisso perché rende più stabile la vita, i rapporti, la famiglia, cioè non parlava di provvedimenti. Sa, i ministri oggi parlano un po' di tutto, vanno a convegni, vengono invitati alle tavole rotonde, ecco, forse bisognerebbe dire che c'è un'eccessiva presenza da questo punto di vista. Eccoci, andiamo a Bari, Franco. Franco? Pronto? Buonasera, dica. Sì, eccomi. Prego. Pronto? Franco, dica. Vabbè, non sì. Ci sente. Andrea da Firenze. Sì. Prego, Cruciani, dica. Cruciani, buonasera. Buonasera. Senta, io volevo intervenire ancora su Tremonti e sulla sua frase. Sì. Credo che abbia detto un'ovvietà, chiaramente come ha detto anche una frase lapalissiana, chiunque vorrebbe avere un contratto fisso in luogo di un contratto a tempo determinato. È come dire, non so, viva la libertà, viva... È chiaro, la pace, è chiaro che il contratto la felicità costituisce valore e altre però cose ancora. Dico anche che anche la flessibilità introdotta con la legge Biagi ha introdotto del valore nel sistema del mercato del lavoro italiano, perché ha permesso di aumentare il lavoro e dare del lavoro alla gente che probabilmente non lo avrebbe. Quello un ascoltatore mi scrive, ultime da Lanza, Tremonti ha detto che è meglio essere ricchi e belli che poveri e brutti. Esatto, è la stessa cosa. Che cosa non è un valore, invece, secondo me, è l'uso distorto che si fa di questa legge della flessibilità, perché utilizzare questo sistema di contratti per, tra virgolette, sfruttare una situazione di precarietà, di inferiorità, diciamo, contrattuale dei lavoratori non mi sembra giusto, anche perché devo dire che un lavoratore flessibile dà un valore in più all'azienda, cioè che è proprio dato, dato dal fatto di essere flessibile, quindi costituisce un valore. Ora, la mia proposta, diciamo un po' provocatoria, è quella: perché non introdurre un'indennità di flessibilità a favore dei lavoratori precari, dei lavoratori flessibili? Lei ha ragione, Andrea, è una cosa di cui si discute purtroppo da troppo tempo, da tanto tempo, senza arrivare ad una soluzione concreta. Perché c'è una disparità pazzesca nel mercato del lavoro tra chi ha permetterebbe di eliminare tutti gli usi distorti che si fanno di questo strumento. Gabriele da Bergamo, buonasera Gabriele. Buonasera. Dica. Dunque, io vorrei intervenire cambiando un pochino l'argomento e tornando indietro di qualche giorno per la questione della religione islamica a scuola, l'ora di religione. E la mia idea è che, pur essendo forse con la giusta regolamentazione una buona idea, io insegno religione tra l'altro in un liceo, quindi non avrei nulla in contrario, temo che non si farà nulla, così come non si farà nessun'altra cosa in concreto di alternativo, anche se la legge lo prevederebbe, no, per quei ragazzi che non fanno religione. Cosa fanno ora? Niente. O escono da scuola o vanno al bar e rientrano nell'ora successiva, così. Non si farà nulla e quindi neanche quella l'ora di religione islamica, perché? Perché sarebbero altri insegnanti da pagare. Quindi in un periodo in cui si taglia tutto nella scuola è impensabile pagare nuovi insegnanti. Ma credo, Gabriele, non so se il motivo è questo. Secondo me non si farà nulla perché è un'idea un po' bislacca, devo dire, nonostante gli appoggi trasversali che ha avuto. La ringrazio, voglio farvi ascoltare a proposito delle divisioni all'interno della maggioranza sulla questione del posto fisso, una meravigliosa imitazione di Crozza, di Brunetta da parte di Maurizio Crozza, un Brunetta che viene descritto da Crozza come uno a favore dell'estrema flessibilità. Crozza Brunetta. Ve lo dico, è vero. Molti precari andranno a casa. 200.000 precari via a casa. 200.000 precari non avranno i soldi per mettersi un tetto sopra la testa. E saranno in strada. Bene, capita. Ma no, la moglie li lascerà da soli, senza moglie e senza un tetto sopra la testa. È la vita. E bisogna sapersi adattare. Darwin, Fringuelli. Spiego. Parliamo Fringuelli. Sono un fringuello alle Galapagos. Bene, non ho vermi da mangiare. Cosa faccio? Vado al governo, pronto, sono un precario, fringuello, non ho vermi da mangiare. No, mi adatto. Vedo delle sule, che sono degli uccelli marini, che gli succhio il sangue e vive. Bene, adattamento. Ma senti, i precari non possono andare in giro a succhiare il sangue. A parte che non sono fringuelli. Dite ai signori, per favore, ai giornalisti, che mi sono già annoiato. Però dovrebbero andare alle Galapagos i precari. Ah. Assumiamo i fringuelli. Vabbè. I fringuelli sono più trasparenti, sono più efficienti. No, sì, se dico fringuelli la gente capisce, se dico precari, cosa vuol dire precari? Uno che è forse su una trave. Luca dalla provincia di Mantova, buonasera. Buonasera, salve, intanto mi fa molto piacere parlare con lei. Dica Luca, grazie. Volevo intervenire sul discorso del precariato. Ho sentito che si è fatto cenno sul fatto che le partite IVA c'hanno un valore. Io credo, alla luce della mia storia, che non espressino un valore, siamo una piccola parte di precariati, come del nostro se ne parla forse un po' poco, nel senso che faccio parte di tutti quelli che per avere un posto di lavoro sono stati obbligati ad aprire una partita IVA, del tipo: ok, ti do il posto, però o come partita IVA oppure quella è la porta, per risparmiare su ferie, malattie, nel caso delle donne, maternità e così via. Siamo una piccola parte, ma esistiamo anche noi. Sono precario dal 2000. Ma precario che significa? Scusi, quando lei dice sono precario, cosa significa? Vuol dire che non ho mai avuto la tutela di un... Cioè non ha mai avuto un contratto, non ha mai avuto un contratto a tempo indeterminato? Mai avuto un contratto a tempo indeterminato. Vabbè, allora non è precario, però ha sempre lavorato. Ho sempre lavorato, sì, perché poi mi sono impegnato, mi sono... Sì, no, ma lei ha fatto benissimo, Luca, solo che la parola precario ha assunto in Italia un termine negativo, indice di disperazione, allora, di crisi, eccetera, eccetera. Sì, condivido pienamente, però anche il fatto di doversi preoccupare di andare a lavorare, per esempio con la febbre 38, per evitare di perdere giornate di lavoro e dover... Scusi Luca, adesso sentiamo poco, la linea è disturbata. Lei fa il libero professionista sostanzialmente, ha scelto di fare il libero professionista se non sbaglio, cerchiamo di rimetterci... No, è quello il fatto, me l'hanno detto fai il libero professionista oppure quella è la porta. Oppure quella è la porta, diciamo che l'azienda con cui lei ha avuto a che fare le ha detto noi preferiamo che lei sia non assumere a tempo indeterminato ma di pagarla in un altro modo. Oppure quella è la porta, non so se l'alternativa fosse quella, ma comunque insomma Luca, qual è la sua lamentela? La lamentela è che si fa tanto la cresta sul posto di lavoro e poi si parla di maternità, si parla di spazio per la famiglia, quando poi in poche parole ti obbligano ad andare a lavorare quando sei ammalato, a non poterti prendere un giorno per stare con la tua famiglia e tutta una serie di piccole cose che, sì, per carità, c'è chi poi non ha il posto di lavoro, però io lo vedo come un disagio, tutto qui. Sì Luca, ripeto, probabilmente ci vuole una maggiore tutela per chi adesso non ce l'ha, a prescindere poi dalle situazioni particolari e dalle situazioni di ognuno di noi. Marco da Roma, buonasera. Ah, buonasera Cruciani. Dica. Dunque, volevo parlare riguardo al lavoro cosiddetto precario, ai co-co-co, contratti a progetto, queste cose qua. Secondo me è un'occasione che hanno colto un po' tutti, lo Stato compreso, con la legge 3 o così via, perché in pratica il precario viene pagato meno di quello a tempo indeterminato, cioè ha meno contributi in ogni caso, ha meno garanzie, meno si non ha le 13 o 14 mensilità, sì, e così via. Sì. Quindi è un'evasione fiscale e contributiva. Ma che c'entra l'evasione fiscale e contributiva, Marco? È generalizzata. Se l'unico provvedimento da prendere ora, secondo me, sarebbe quello di equiparare, perlomeno a livello retributivo e contributivo, i contratti a progetto. A questo punto non né le aziende né lo Stato sarebbe portato a assumere dipendenti con questa forma contrattuale. Marco, potrebbe essere... Poi è anche, siccome questi svolgono lo stesso lavoro di quelli a tempo indeterminato, perché retribuirli di meno? Anzi, dovrebbero essere retribuiti di più perché hanno il rischio della precarietà. Sì, su questo non c'è dubbio, Marco, si dovrebbe trovare qualche formula per pagare di più. Lei ha ragione, però adesso non ci addentriamo nei dettagli, perché questa qua non è una trasmissione in cui si può parlare delle diverse forme contrattuali. Stiamo parlando fatto che da qualche giorno, la ringrazio comunque per il contributo, Marco, da qualche giorno cosa è successo? Da qualche giorno si è innescata una discussione, da qualche ora in realtà, sul nulla, perché non è che il governo abbia detto faccio una proposta, voglio modificare questo, voglio modificare quell'altro, voglio intervenire sul mercato del lavoro, ci sono delle proposte in Parlamento, no, nulla di tutto questo, niente, una frase di Tremonti, poi oggi il presidente di Confindustria, la maggioranza, l'opposizione, le critiche, le controcritiche, eccetera. Va bene, Luciano da Bergamo. Pronto, buonasera. Buonasera, dica. Buonasera. Innanzitutto mi scuso perché non vorrei parlare di un argomento che è stato già chiuso perché l'ho persa per una mezz'oretta dall'auto alla casa, ecco. Quindi vorrei tornare un attimo solo all'argomento Berlusconi. Volevo porle una semplice... Non ho capito, scusi Luciano, mi ripeto un attimo. Dicevo, volevo tornare un attimo all'argomento Berlusconi. Sì, dica Luciano, dica. Se ne stava parlando prima, l'ho persa per una mezz'ora. Non si preoccupi, dica pure. Una semplice domanda, io volevo capire questo. Partiamo dallo zero, dal niente. Il nostro Presidente del Consiglio utilizza i propri giornali, e da qui in avanti può essere il KGB, utilizza un qualcosa per far pedinare un giudice che l'ha condannato. Ha condannato alla Fininvest a risarcire, comunque l'ha condannato. A me pare scandalosa, mi scusi l'aggettivo forse anche esagerato, ma mi esce questo. Non è troppo esagerato in generale, non è troppo esagerato. In generale, sì, se ne sentono di peggio. Esatto. Allora... A me pare però scandaloso già il fatto semplice, cioè che una persona potente, quindi un potente del nostro paese, nella fattispecie il Presidente del Consiglio, utilizzi un qualsiasi strumento che ovviamente, esagerando, può essere il servizio segreto, in cui assolutamente non credo abbia utilizzato molto allora... più semplice. Le chiedo a lei, sì. Noi dobbiamo cercare di capire se ha usato i servizi segreti piuttosto che... O è già scandaloso il fatto che il nostro Presidente del Consiglio, quindi un potente del nostro paese, usi dei metodi... No, mi scusi, però Luciano, partiamo da una considerazione. Lei dà per scontato che Berlusconi alza il telefono e dice: scusate, caro Brachino... oppure addirittura il capo delle news di Mediaset, fate qualcosa, cercate di trovare qualcosa su questo giudice mesiano, cercate di incastrarlo, di metterlo in difficoltà. Cioè, dà per scontato che sia avvenuta questa conversazione, che l'ordine sia venuto di fare quel servizio su Mesiano sia venuto da Berlusconi. Lei come fa a essere così sicuro? Mi scusi. No, ma infatti io non ne sono assolutamente sicuro. Allora, però mi pare anche strano andare a ricercare che qualcun altro abbia cercato in questo giudice il male, qualcun altro nel senso della persona, lasciamo stare Berlusconi, ma in un caso specifico della persona, dell'interessato, diciamo. Massimo D'Alema, ospite 8:30, sentiamo. Quando noi introducemmo l'incentivo detto credito d'imposta per gli imprenditori che assumevano persone nel mezzogiorno, l'incentivo semplice, automatico, era dato agli imprenditori che assumevano con un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Quello era un atto a favore del lavoro stabile. Il governo e Tremonti lo hanno cancellato. Quella misura non esiste più. Per cui io che cosa devo giudicare? Gli atti del governo o le chiacchiere da caffè? Insomma, io ho qualche difficoltà. La polemica di D'Alema dice: noi abbiamo sempre voluto il lavoro a tempo indeterminato, invece il governo chiacchiere e poi nella realtà cancella alcune regole. Ma abbiamo collegato Graziano Mesina. Buonasera. Buonasera. Mesina, quante polemiche, addirittura un'interrogazione parlamentare, ma si rende conto in Parlamento? Si vede che non hanno altri argomenti. Non hanno niente da fare, secondo me. Questi stanno annoiando lì. Certo, perché addirittura un deputato del PDL fa un'interrogazione parlamentare per dire: scandalo, Mesina potrebbe partecipare all'Isola dei Famosi. Pensa che scandalo. O non hanno niente, o non hanno niente da fare, o si vogliono fare pubblicità. O non sa niente di me. Vabbè, ma non sa niente di lei. Ah, beh, certo, della sua vita, lei dice, del suo percorso, eccetera, eccetera. Nulla. Anche il presidente Cossiga ha detto: beh, a me non sembra tanto una cosa scandalosa. Cossiga, insomma, lei lo conosce bene, perché insomma, se partecipano tante sgallettate, non si capisce perché non possa partecipare Mesina, che si è fatti i suoi begli anni di carcere, insomma, no? Le e fa poi chi lo dice che io accetti una cosa del genere? Ma fino adesso non mi hanno proposto niente. Ma infatti, stiamo parlando di ipotesi, naturalmente, di ipotesi. Ma se vuole quella parlamentare che ha sollevato tutte queste polemiche, se vuole glielo intesto nel suo conto corrente, se me lo dai, poi lo dai in beneficenza chi vuole. Vabbè, adesso non esageri, Mesina. Che cosa dice? L'ingaggio? Dice l'ingaggio della... Sì. Ma insomma, lei ha avuto dei colloqui, mi dica la verità, Mesina. Ma i soldi che si rubano loro, quelli che non fanno niente lì, dalla mattina alla sera. Vabbè, adesso non se la prenda con programma, cosa vogliono? Non se la prenda col Parlamento in generale. Ma io non me la prendo col Parlamento, con alcuni di loro. Con alcuni, certo. Con alcuni. Senta, ma insomma, qualche contatto, però, qualche colloquio lei l'ha avuto, altrimenti la cosa non sarebbe uscita fuori. Insomma, ce lo non dica. Non ho avuto niente. E non me ne frega niente. Cioè, per quello. Cioè, non ha avuto nessun contatto, nessun colloquio, no. Non gliene frega niente, non farà l'Isola dei Famosi. Ma guarda, non è che non lo fanno, non mi hanno proposto nulla e non mi interessa niente, anche se mi avessero proposto, escluso, figurati quanto ci penso io. Vabbè, quella che prende tutta questa briga di interrogazione parlamentare. Adesso lei lasci da parte l'interrogazione parlamentare, insomma, non stiamo parlando di quello. No, non mi hanno proposto nulla, dai. Però se lei... Per il momento non mi hanno proposto nulla, se me lo propongono poi vedrò. Per cui non esclude la possibilità, perché no? Insomma, perché io non so cosa deve fare, che ruolo deve svolgere, non è che sono programmi che ho seguito, li ho visti così di sfuggita qualche volta. Ma non si troverebbe un po' a disagio in quelle... Il tipo che mi adeguo a tutti gli ambienti, a tutte le i disagi che possono comportarne. A tutte le difficoltà e tutto, figuriamoci. Tutto. No, le ho superate tutte ormai. Sono entrata all'inferno 2 o 3 volte e sono uscito sempre. Ma lei quanti anni ha, Messina? Figura se mi spaventerebbe una cosa del genere, per così poco. Quanti anni ha lei, Messina? 67. 67. Un deputato dell'UDC, Dalia, sa che cosa ha detto? Sì. Messina, lo share non calpesti il rispetto delle vittime. E quale vittime? Vabbè, magari delle sue gesta del passato. Ma non so, le vittime che a me mi hanno ammazzato 2 fratelli, per che cosa? Per gli sbagli, ma non sbagli, sbagli voluti da magistratura e dalle istituzioni. Vabbè, adesso non addentriamoci nei casi. Come no? E allora se lei la mette su questo piano anch'io la metto. No, io non lo sto mettendo, sto riportando quello che dice questo deputato. No, parlamentari sto rispondendo. Dimenticandosi quello, si aggiorni, allora perché io sono stato messo al bando? Per quale motivo? Al bando che significa? Latitante, qualcuno è latitante è messo al bando. Che no, deve avere fiducia ancora nell'istituzione, presentarsi. Vabbè, lei dovrebbe avere fiducia, a un certo punto ha ricevuto la grazia, qualche fiducia ce la deve avere ormai nell'istituzione. Ma non è quello, li sto dicendo, questi non sanno niente. Voglio vedere se toccava una famiglia sua come è toccata la mia. No, lei sta dicendo, quelli che si esprimono adesso su questa vicenda e su allora, di lei non conoscono la vicenda. Sì, perché non guardano tutti e due i lati? Non è a guardare solo uno. Poi mi sono fatto 40 anni di galera, non è che mi sono fatto 2 giorni. No, ma infatti questo è l'argomento. Mi sono tutte le responsabilità. L'argomento forte è questo, insomma, che lei ha pagato con la giustizia, non vedo non perché solo, adesso le offrono un contratto. Anche le persone le devo rispettare con dignità. No, ma al di là di questo, Messina, la mia posizione personale è questa. Lei ha pagato i suoi conti con la giustizia, ha fatto tanti anni di carcere. Quelli che devono pagare per me e per la mia famiglia non l'ha pagato nessuno. Vabbè, a parte questo. Io le posso rispondere su quello. No, guardiamo solo a una parte della bilancia. No, dico, a parte questo, la mia posizione... Sono cose fatte poi involontarie. No, certo. Fatte volontariamente. Da parte loro e nessuno però si è preso la responsabilità. Va bene, io dico al di là di quello che le è successo, lei oggi è un uomo libero dopo tanti anni di carcere, non vedo perché non può accettare una proposta di questo tipo, no? Non c'è niente di particolarmente scandaloso secondo me, o no? Ma per me no. Lo scandalo lo sto facendo a chi non lo deve fare. Si guardi prima intorno quella e altri di quelli. Ma lei l'ha mai visto l'Isola dei Famosi? No, qualche volta l'ho vista così. Le piace come programma? Bah, insomma. Non ho niente da dire, guarda, né in bene né in male. Ho capito, però qualche idea se la sarà fatta, altrimenti questi sondaggi che lei conferma, perché lei poi i sondaggi li conferma che ci sono stati con lei, qualche abboccamento c'è stato, insomma, non c'è dubbio. Non c'è stato nessun abboccamento, perciò... Ma sta tornando, adesso sta tornando in Sardegna, perché sentivo prima... Sì, sì. E dov'era? A Milano? Sì, era a Milano da Emilio Fede. Vede che le cose che io faccio le dico anche. Da Emilio Fede? Che è andato a fare da Emilio Fede? È una piccola intervista. Ah, per quel programma che si chiama Password, come si chiama? Sì, credo andrà in onda. Sì, il programma di approfondimento che c'è su TG4. Sì, sì. Ma in questa occasione mi ha domandato anche questo perché l'ha saputo la notizia così. E lei che ha risposto? Ma io ho risposto che non sapevo nulla, com'è la verità. Nessuno mi ha contattato, ho fatto i contratti. Ecco qua il suo amico Cossiga. Cossiga ha pagato tutto, perché no all'isola? Vabbè. Le fa piacere, sì. Certamente. Cossiga è sempre Cossiga, un suo vecchio amico. Messina. Amico, vede le cose dal lato giusto, più che altro. Vabbè, adesso perché fa una dichiarazione favorevole, le vede dal lato giusto. Ma è quello, Cossiga sa le cose come stanno. E dice sempre così: Messina ha pagato tutto, svolge l'attività di guida turistica con un'agenzia per girare nei luoghi in cui egli ha banditato ed ha dei carabinieri tra i suoi amici. Non capisco perché all'Isola dei Famosi ci possono andare alcune sgallettate, non Messina, che oltretutto... No, io non ho amici carabinieri o non carabinieri, io chi mi saluta, che mi rispetta, lo rispetto, ma amicizia del genere non ne faccio con nessuno. Chi se la merita, l'amicizia la faccio. Chi ha preso un'altra strada, io ho tanto di rispetto, però amicizia non ne faccio proprio. Guardi. Ma con chi lei dice? Se mi dice amici carabinieri, quello quell'altro. Ah, così, sì. La gente può fraintendere queste amicizie. No, per carità, non vogliamo. Non è che essere amici dei carabinieri sia un delitto, per carità. Chiamando che devo andare, dai. Va bene, si imbarchi, ciao. Grazie. 20:44, tutto in diretta, la Graziano Messina all'aeroporto di Milano. Sempre D'Alema sulla 7, poi ascoltatori, sentiamo. Politiche per Palazzo Chigi, e quindi vi ritroverete comunque con un grosso problema, no? Irrisolto, o no? I problemi vanno risolti uno alla volta. Dunque, noi stiamo facendo le elezioni primarie, che comunque la si pensi, diciamo, sono un grande evento di mobilitazione democratica. Se domenica, come io credo, come è ragionevole sperare, voteranno tra 2,5 milioni e 3 milioni di persone, sarà difficile considerare questo evento qualcosa di inutile. Sarà stato un grande fatto democratico di partecipazione, di manifestazione della vitalità dell'opposizione, e si sceglierà il capo del maggior partito di opposizione in Italia, che non è una cosa in sé così inutile, diciamo. E questo pensa delle primarie? Quello che ha detto, cioè quello lei ritiene... che accadrà domenica è questo. E lei cosa pensa delle primarie? Quello che penso io delle primarie lo discuteremo dopo, quando discuteremo dello statuto, eccetera. Ma quello che accadrà domenica. Che pare discusso lo statuto, no? Lasciamo perdere. Noi siamo impegnati in una campagna elettorale sui generis, che coinvolge in una scelta di partito un pezzo dell'opinione pubblica, e domenica vanno a votare 3 milioni di italiani. È un fatto irrilevante? Non credo mica, è un fatto piuttosto rilevante, anche dal punto di vista dello share, diciamo. Ecco. Quindi è un grande fatto democratico, si sceglie il capo del maggior partito di opposizione. Insomma, si è capito che cosa? Che le primarie a D'Alema non piacciono troppo, ma d'altra parte non è una... è una novità, che il Partito Democratico ha scelto un percorso un po' tortuoso anche secondo D'Alema. Io parto da un presupposto, da una convinzione: un grande partito che ha fiducia in se stesso, un grande partito che è strutturato, che non traballa, eccetera, sceglie un segretario in 10 minuti. Sceglie un segretario con 40 persone, 50 persone, scelgono il segretario perché magari c'è un segretario che in quel momento è particolarmente carismatico. Mi sembra un'elezione, una designazione, un percorso molto molto cervellotico, che è proprio di un partito che ha ancora grandi difficoltà di struttura al suo interno, di regole, eccetera. Luciano da Bergamo era in collegamento con noi, dovevamo una risposta o comunque doveva proseguire il suo ragionamento. Luciano, un ragionamento che non è che avevamo capito molto bene. Sì, allora provo a spiegare meglio con un esempio. Io e lei abbiamo un contenzioso, io ne esco perdente, mi voglio vendicare, sì. E provo con tutti i modi a mia disposizione per, tra virgolette, fargliela pagare. D'accordo, questo è Mesiano Mediaset, allora? Ecco, lei giustamente prima mi diceva, dando per scontato quindi la colpevolezza e l'utilizzo di questo metodo. È chiaro che ci vorrebbero le prove per dimostrare che abbia utilizzato il proprietario, abbia utilizzato il proprio giornalista come, sì, metodo vendicativo, anche se, mi scusi, mi permetta, mi pare una piccola prova il fatto che lo stesso Berlusconi ai tempi avesse detto ne vedremo delle belle. Quindi beh, non secondo è una me prova, non è una prova, potrebbe non essere anche... Non è una pistola fumante, però... No, ma così, potrebbe essere tutto interpretato anche al contrario, Luciano, siccome l'ha detto poi... Sì, no, dicevo che poi tutto può essere quindi opinabile, perché qualunque cosa può essere allora non vera finché non c'è proprio la prova nella pistola fumante, però... Io dico, indipendentemente, e chiudo il mio intervento per lasciare, sì, spazio agli altri, indipendentemente dall'uso dei servizi segreti, piuttosto che, secondo me, se effettivamente così, il fatto che il Presidente del Consiglio, un potente di un paese, utilizzi un metodo per sconfiggere un avversario che diciamo l'ha condannato, secondo me è già gravissimo. D'accordo, questo, d'accordo, indipendentemente da d'accordo, uno d'accordo. Grazie. Miriam da Modena, buonasera, andiamo veloci. Miriam, buonasera. Buonasera, io volevo solo fare un intervento per come ho vissuto fino adesso io il mondo del lavoro precario, chiamiamolo, sì, così. Lavoro per un'agenzia di lavoro temporaneo, che in Italia è vissuta ancora un po' come la fautrice del precariato. In realtà le agenzie offrono un sacco di altri servizi. Lavorando appunto per una multinazionale, so che all'estero la mobilità lavorativa non è considerata così negativamente come in Italia. Un curriculum dove una persona ha cambiato diversi lavori è considerato una persona versatile, in Italia una persona che ha cambiato diversi lavori è considerata una persona poco affidabile. Sì, poi, Miriam, sicuramente, sicuramente c'è questa cultura in Italia, non c'è dubbio. Esatto. Vuole aggiungere poi, qualcosa velocemente? Sì, penso che il lavoro a tempo indeterminato sia una convinzione tutta italiana, in realtà all'estero la mobilità lavorativa permette alle aziende di rincorrere, tra virgolette, i candidati per aggiudicarsi la loro collaborazione. Diciamo che dipende da paese a paese, non è sempre così. La ringrazio. Corrado ci chiama da Pisa, buonasera. Sì, buonasera Cruciani. Dica. Senta, io la chiamo in merito anche all'intervento dell'ascoltatore precedente sulla vicenda del giudice Mesiano. Non so appunto se secondo me se è Berlusconi che effettivamente dà gli input, però potrebbe anche non essere lui e potrebbero essere i suoi giornalisti, alcuni dico, che spontaneamente per far piacere magari a lui fanno queste cose. Può darsi, Corrado, può darsi che ci sia stato qualcuno più realista del re e abbia deciso di mandare in onda il servizio per cercare di compiacere a Berlusconi. Diciamo che secondo me non è stata una grande idea poi alla fine. No, poi alla fine no, effettivamente penso che abbiano fatto piuttosto al re in questo caso. Però appunto senza indagare sempre se Berlusconi effettivamente va da questi input, però purtroppo penso che in certi casi non sia nemmeno lui, ma addirittura siano i suoi, alcuni giornalisti che per mettersi in buona luce fanno queste cose. Questa è la mia opinione, però. Sì, no, non può darsi, Corrado. La ringrazio, ci sta tutto. Michele da Milano, buonasera. Sì, buonasera, io volevo intervenire su quello che avete detto prima riguardo di Mesina. Sì, era anche in diretta con noi prima, Michele. Sì, sì, ho sentito qualcosa e che sentivo la radio col telefono. Sì, c'era Graziano Mesina, lo abbiamo beccato mentre stava tornando in Sardegna da Milano e ci ha detto che finora non c'è nulla. Insomma, non ha smentito che farà l'Isola dei Famosi. Potrebbe anche darsi. Ecco, potrebbe anche darsi. Nel sì. caso in cui fosse, l'ho detto prima al Centralino, io sono sempre stato contrario a tutti i vari reality. In questo caso, giuro, consegno i miei documenti a chi di dovere e me ne vado dall'Italia. Non è possibile. No. Sono stufo di io vi ascolto tutte le sere, sono stufo, stufo di tutte le varie polemiche che vengono scatenate sempre, politiche, non politiche, è una cosa indecente. Qui mi sembra un attimino di uscire da però Michele, mi scusi, Mesina ha fatto 40 anni di carcere, un uomo libero fa quello che vuole della sua vita, c'è un'azienda privata che si chiama Magnolia, che organizza un reality e chiama chi vuole, anche un ex Galeotto, non è uno che si è salvato così. Su questo non ci sono dubbi che Mesina sia una persona libera e questo mi va bene, sono libero anch'io, quindi penso di poter prendere le decisioni che voglio, però non lei dice uno col passato di Mesina anche, uno col passato di Mesina non dovrebbe andare in televisione. Ma scusi, è stato ospite di trasmissioni, di talk show, è stato anche ospite della Vespa, adesso non può andare all'Isola dei Famosi, insomma. Delle due l'una, o la televisione pubblica proprio non lo può chiamare, oppure può andare anche all'Isola dei Famosi. Io di mio sono convinto che sia meglio forse che certe persone con certi passati se ne stia fuori da quello che è, anche perché guardate che il discorso Grandi Fratelli, Isola dei Famosi, eccetera eccetera, vengono seguiti veramente da milioni di persone e dopo sì che nascono come se ne parlava l'altra sera, i temi fatti dai bambini di Napoli, io da grande voglio fare camorrista, ripetono anche quelli, è un problema secondo me, io non esagererei, d'altra parte in molti paesi europei e non solo europei i reality sono già al tramonto. Dobbiamo chiudere tra 30 secondi, allora lascio la conclusione a Luca da Torino, Claudia da Roma, Giancarlo da Milano, ci sentiamo domani se vogliono. Luca, conclusione. Sì, buonasera Cruciani. Senta, io la seguo molto volentieri e mi sforzo di capire quello che sta succedendo intorno a noi. Sì. Facevo solo una considerazione di questo genere, cioè allora, le parole dette da chiunque, secondo me o si decide di dargli un valore o si decide di non darglielo. A maggior ragione se le parole sono dette comunque da chi ci governa, che sia la maggioranza o l'opposizione non importa, non sto facendo un discorso di parte. Sì, sì. Allora, se il Presidente del Consiglio si smentisce se stesso dicendo adesso che è favorevole al discorso del lavoro a tempo determinato, indeterminato, sì. Ho capito che non c'è un disegno di legge, una proposta, ma comunque sono parole dette da coloro che ci governano, comunque un indirizzo lo stanno dando. Siamo anche cioè l'indirizzo è quello che probabilmente non verranno rafforzate le regole sulla flessibilità. Qualsiasi cosa, sono comunque parole dette, quindi secondo me un valore ce l'hanno. No, ma queste parole certo che hanno un valore, non c'è dubbio. Il valore è che è di una discussione così in termini generali, perché poi concretamente non se ne fa nulla. Però voglio dire, comunque hanno un peso, cioè non mi sento di soprassedere così. No, ma chi lo dice che non hanno un peso? Dico semplicemente che avranno un peso nella discussione così generale, però non hanno un peso, non hanno una loro, come dire, non è che vengono revocate le regole sulla flessibilità, così con un tratto di matita. Devo chiudere però, anche con lei ci sentiamo domani 18:30, ciao. La Zanzara.